È una tranquilla notte di settembre, vi ho fregato. Sono seduto, indovinate dove? No, non all'Apocalipso. L'han tirato giù con una bomba. È stato il racket dei caffè. Galles usava il Mokaska invece del Columbia Royal. In 2 mesi però sarà come nuovo. Il bar, voglio dire. Galles non si è fatto neanche un graffio, o forse se l'è fatto, ma non si nota. Io adesso sono sulla sedia più scomoda, al tavolo più schifoso, del bar più malfamato, della via più squallida, della zona più sordida, della capitale del terzo paese industriale del mondo. Il cameriere sembra la colazione di Dracula. Ci sono scarafaggi anche dentro gli scarafaggi. Il fernet è dolce. Sul palco c'è una spogliarellista che ogni volta che si toglie qualcosa c'è qualcosa che rotola giù, ma non si capisce cosa. Ma il pianista è fantastico. Se esiste l'anima, sta suonando con quella. Ho chiesto se avevano un giornale. Perché? Si è cagato addosso? Ha detto il barman, che è veramente una persona delicata. Niente giornale. Allora ho cercato la televisione. C'era. Ma davanti ci stava piazzato un energumeno che seguiva con lo zapping 7 partite di calcio contemporanee. Voglio vedere le notizie. Le notizie, ha detto lui. Le notizie, ho detto io. Come hai detto, le notizie, ha detto lui. Ho detto proprio le notizie, ho detto io. Poi gli ho tirato un pugno in fronte e lui è caduto, insieme alla sedia. Alla bionda, nel senso di birra, e al suo amato telecomando. Così ho potuto vedere le notizie. Il premio dei premi sarà rimandato di una settimana. Il gerarca Enoch ormai da 16 ore non appare in televisione. Facce scure su tutti i canali. Notizie dall'ingorgo. Morte 50 persone, 3 di meno del mese scorso. Moltissime per risse e stenti. Una bruciata. Il cadavere è irriconoscibile. 50 tossicomani sono fuggiti dal centro di concentramento statale Salus. Per ognuno che verrà riconsegnato alla polizia c'è in premio un bilancino pesadroga d'oro. Cultura. Il poeta Ramanzer ha vinto il premio mercoledì per la più lunga poesia in apnea ed è candidato al premio giovedì per la miglior traduzione di telegramma. Ma non sono queste le notizie che cerco. E quali allora, allievo Bed? Questa volta non mi sbaglio, è la voce del maestro. È un po' cambiato dall'ultima volta che l'ho visto. Allora indossava un kimono arancione. Adesso ha un completo gentleman vittadello, con camicia Oxford e cravatta stroboscopica. Facciamo una partita a biliardo per non dare nell'occhio? Dice. Prende la stecca e al primo colpo mette in buca 16 palle, tra cui due di un altro tavolo. Tanto per non dare nell'occhio, vero? Gli dico. Mi è partito il colpo. Ti volevo informare che secondo voci non ufficiali qualcuno è riuscito a entrare negli archivi segreti del regime ed è scoppiato un gran casino. Si stanno scannando. Il loro compositore più bravo è sparito e si dice ci sia un filmato sul lurido modo in cui l'hanno reclutato. Voci anche su una bella compositrice, su un macigno liquirizia e su un ridicolo progetto marziano. Ma la voce più ghiotta è che Grapatax è ancora vivo. Non mi dire. Sì. E darà uno spettacolo dal vivo una di queste notti, in qualche supermercato abbandonato. Non male, vero? Ci deve essere lo zampino di qualcuno che conosco. Tirai, e la palla finì sul lampadario. Basta con questa commedia, maestro. Conosco il segreto. Bella roba. Tanto studiare ore e ore sui libri e poi non esisto neanche. Ma sei un Baol, un'idea immortale e fascinosa. Sei il pensiero dell'altrove. Magia. Avventura, libertà, utopia e rock and roll. Che bel dépliant turistico. Sono libero anche di non essere un Baol? Questo no, disse il maestro, imbucando anche la stecca. Beh, ora vado a cercare qualche pollo, pardon, qualche discepolo. Sono anni duri e non si devono lasciare i giovani in balia del tempo e dei venditori di complessità. Vado alla Red Cat. C'è un ballo nuovo, assai adesivo, che si chiama Remora. Vieni con me? No, resto qui. Sono abituato a stare da solo. Non resterai solo per molto, disse il maestro. Nessuno sarà mai più solo. E sorrise magistralmente. Ora che il maestro non c'è più, sono pentito di averlo lasciato andare. Me ne sto qua, col mio bicchiere di Gordon Pym in mano, e ascolto quel pianista straordinario. Spero che vada avanti tutta la notte. Ed ecco che il posto comincia a riempirsi. Arrivano le tribù dei Nictipori e dei Seleni, i darconauti dai sorrisi misteriosi, i vecchi pernodopoti, gli sputomachi, ragazzi dalla faccia pallida, lupesse un po' annoiate, travestiti allegri con barboncini rosa, batteristi, elder poets, gli agili adidasteri con stereo macigni sulle spalle, e la tribù degli scatedromi su tavole alate, e i rateri e i cobali dai giacconi irti di punte metalliche, e dolcissimi punk muschiotricoti, e gli skinhead ocriopoti, e anche qualche manageronte pentito, e uno spacciatore di elleboro, e una vecchia pusher di petunie che si scola l'incasso, un vecchio ex terrorista che vende dinamite usata, fidanzatini da cartolina, squadre di calcio dopo l'allenamento, portinaie, spiritiste, avvistatori di UFO, cercatori d'oro, iperborei, extracomunitari, mercuriani, maghi, streghe, maratoneti notturni, filosofi. Non arrivano gerarchetti e clarette, con le loro torme di maggiordomi. Niente aria di set di spot di Brut. Forse anche stanotte non ci spareranno addosso. Cosa pretendiamo di più? Sto qua e ascolto il pianista. Sono all'ultimo tavolo a sinistra, in fondo. Se non vi piace lo spirito del tempo, e se vi piacerebbe conoscere la filosofia Baol, se non riuscite a dormire o se state dormendo, venite. Mi riconoscerete subito. Ho un tatuaggio a forma di fiocco di neve sulla mano. Starò qui, fino a quando il pianista suonerà. E finché ci sono io, suonerà.